Dog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È come se si portasse con sé un fulmine tascabile, un marchingegno che con un puntatore laser colpisce a pochi metri di distanza lanciando due dardi attaccati a fili elettrici con decine di migliaia di volt che provocano un doloroso shock muscolare. Per alcuni secondi non si ha il controllo dei movimenti e si resta senza difesa. Insomma, si tratta di un'arma ora vietata. Il taser è una pistola elettrica conosciuta in tutto il mondo e già in dotazione agli agenti degli Stati Uniti e del Canada, tra gli altri. Ora potrebbero avere pistole elettriche anche le forze dell'ordine italiane, impegnate però solo in operazioni di ordine pubblico. Così come le polizie di Torino, Milano, Roma e Napoli potrebbero avere agganciate ai gilet tattici delle microtelecamere. La gente avrà solo due controlli, accensione e spegnimento della telecamera, entrambe decisioni che spetteranno al dirigente responsabile, in caso di necessità di documentare quanto sta accadendo. Ma è il taser a sollevare più interrogativi. È pericoloso per chi viene colpito? Certo, bene non fa, ma ripetono i sostenitori del taser. È bello che l'oggetto misterioso di cui si sta parlando oggi in tutti i giornali, il taser, per cui la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato una norma per consentire alle forze dell'ordine di usare questo oggetto, nasce da un fumetto noto di una specie di agente super tecnologico, si chiamava Tom Swift, e da qui nasce dal 1910 l'idea di questa pistola lanciadardi. È un bello oggettino, l'avete visto tante volte nei film americani, appare molto, infatti tutti dicono che è un'americanata, chissà perché è un'americanata, un attrezzo che serve a usare in maniera intermedia tra manganello e pistola, uno strumento per immobilizzare persone malintenzionate che in quel momento necessariamente bisogna mettere in condizioni di non nuocere. Il taser spara questi due dardi, colpisce una persona anche se ti sfiora il vestito, cadi per terra, ti si contraggono i muscoli e resti immobilizzato in una posizione fetale. Certo, non credo che dia gusto prendersi una botta di taser, ma non credo nemmeno che questo possa essere ineludibile rispetto a una maniera di sedare sommosse, di fermare persone malintenzionate come mai usata in tutto il mondo. Beh, oggi è all'ordine della discussione perché in Italia sembra che improvvisamente quello che da altre parti è comunemente usato diventa un oggetto di tortura. È qualcosa che può creare comunque dei problemi, perché se una persona cardiopatica viene colpita da questi dardi che lanciano una corrente a basso amperaggio, ma sono sempre 50.000 volt, che provate a vedere quanto possa dar gusto, questo in effetti può creare dei problemi. Ma anche una bastonata in testa crea problemi, anche una revolverata sugli stinchi crea problemi. Quindi comunque sia, qualcosa dovranno avere in mano i poliziotti per imporre, qualora sia necessario, l'ordine, altrimenti possono mettere dei fiori nei loro cannoni, come diceva una nota canzone. 800 24 00 24, siete d'accordo che la polizia possa essere modernizzata nelle proprie dotazioni, ad avere delle telecamere nelle divise antisommossa per poter controllare, vedere e avere testimonianza visiva delle persone che comunque compiono dei reati a danno della collettività? Siete d'accordo che questa arma, che non è un'arma che uccide, cioè può uccidere se uno ha dei problemi, è fatta e destinata per immobilizzare, possa essere usata come viene usata nel resto del mondo? Quali sono i problemi? I problemi sono che si possa avere un abuso di quest'arma. Si dice, il poliziotto, quando ha in mano un'arma che comunque mette una persona fuori combattimento, semplicemente, invece di usare i metodi tradizionali di convincimento a una persona, scusa caro, mi daresti quella chiave inglese, ti prego ragazzo, quella bottiglia di benzina non lanciarla, forse è meglio che la posi un attimo e parliamo, invece di usare questi sistemi gli spara una taserata e lo blocca subito, dice ci sarebbe un abuso, non lo so, come la pensate? 800 24 00 24. Scambiato per un delinquente armato di una spada da samurai, immobilizzato con una pistola elettrica. È successo nel Regno Unito a Colin Farmer, un pensionato cieco di 61 anni, mentre stava raggiungendo degli amici in un pub della sua città, Chorley, nel Lancashire. È stato confuso con un uomo segnalato agli agenti da varie persone. Ero terrorizzato, ho pensato che mi avrebbero pestato. Poi, senza essere stato avvertito, mi hanno sparato alla schiena con la pistola taser. I got tasered in the middle of my back. La vicenda fa di nuovo discutere sull'uso delle pistole taser, aumentato del 45% l'anno scorso. Chiaramente c'è anche un modello civile che è anche carino a vedersi, non c'ha nemmeno la forma di pistola, è un oggetto che è dissimulabile come qualsiasi altro utensile, sembra una sorta di artistico cavatappi, ma in realtà ha lo stesso uso, ma però è per uso civile. E naturalmente se se ne abusa diventa qualcosa di nocivo, qualcosa di letale. Beh, di questo vogliamo questa mattina avere un confronto con le persone che dovranno usarlo, potranno usarlo, ma anche con i nostri ascoltatori. Qualcuno di voi ha mai usato un taser? Qualcuno l'ha mai visto? Qualcuno ha mai subito una scarica elettrica di quel tipo e ci può raccontare che effetto faccia? 800 24 00 24. Daniele Tissone, buongiorno. Buongiorno a voi. Segretario nazionale SILP, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia. Vi state interrogando in questa mattinata sul fatto che possa essere proprio o non proprio l'uso di questa, di questo oggetto, o è già dato per scontato che l'avrete, quindi dovete fare i conti su come usarlo e in che maniera usarlo? Ma guardi, io la ringrazio per questa domanda, e anche può essere, al di là della sua evocazione un po' romanzata, la questione seria. E sono due le questioni. Una è l'utilizzo dei dispositivi inabilitanti, che è legato anche a quelle che sono le problematiche dettate da interventi on borderline che possono subire le forze dell'ordine, perché anche qua c'è un problema legato alla mancanza di strumenti da parte degli operatori. Però abbiamo, almeno noi in particolare come sindacato di polizia della CGIL, alcune perplessità in relazione all'adozione di un simile strumento operativo, perché ci chiediamo: è in coerenza con quella che è la funzione, la missione delle forze di polizia, e cioè è conforme a quello che è l'aspetto garantista della polizia italiana nei confronti sia dell'operatore di polizia che del cittadino? La domanda che mi pongo è se questa tecnologia sia o meno in coerenza anche con l'uso legittimo delle armi, disciplinato nel nostro paese in modo diverso da quella che ad esempio la legislazione vigente degli Stati Uniti. Scusi, se non ho capito male, voi avete in dotazione, diciamo come dotazione individuale, lasciando perdere poi le attrezzature più complesse, o avete la pistola o avete il manganello. La pistola, esatto, è per le, esatto, lunghe distanze, il manganello avete per forza, quando si usa il manganello si è in un corpo a corpo, e già questo prescrive tutta una particolare attività che impegna la persona. Questo dispositivo permette, diciamo, un controllo a distanza semiravvicinata, 5-6 metri, potete comunque un malintenzionato metterlo in condizione di non nuocere. Esatto, qui si tratta di un dispositivo che è inabilitante per la persona. Dicevo, c'è da interrogarsi se questo dispositivo agevoli e rafforzi il sistema di garanzie che la legge stabilisce nel nostro paese o se interferisca con essa. Penso anche al principio di proporzionalità e la legislazione attuale, che è un elemento centrale, cioè il ricorso alla coercizione fisica. Bisognerebbe andare cauti per avere anche in questo senso dei dati empirici affidabili, perché trattandosi di dispositivi inabilitanti vi sono delle conseguenze derivanti anche all'utilizzo di, ecco, non è un gioco, diciamo. Non è un giocattolo. Ma guardi, le dico che l'argomento è serio. I rischi maggiori che sono stati causati sono dovuti anche alla perdita del controllo muscolare o al penetramento delle freccette in zone inappropriate del corpo. E un rapporto del Consiglio federale elvetico in questo senso nel 2008 ha detto che ha approfondito pericoli e vantaggi dell'impiego della pistola Phaser, che ha previsto nel caso dei cantoni elvetici adeguamenti legali e anche modalità di impiego, dicendo anche nel contempo questo dossier che all'estero le esperienze maturate proprio nell'utilizzo di questi dispositivi inabilitanti hanno dato sul campo risultati controversi. Ma vi farebbero comunque un addestramento specifico, non è che mettono in mano e dice usatelo, perché non... Ecco. Guardi, mentre sullo spray al peperoncino noi come organizzazione sindacale abbiamo ritenuto che gli effetti derivanti dall'utilizzo fossero assai minori e la necessità anche di non avere uno specifico protocollo operativo, qui invece siamo... Ma quello lo usa anche una vecchietta, se lo può comprare e si, esatto, può tenere nella, esatto, borsetta. Non... Esatto, ma le spiego, ogni tipo di uso della forza, a ogni tipo di uso della forza, sia nel mondo militare che civile, deve seguire un protocollo specifico operativo. Sempre qua, il Consiglio Consiglio federale elvetico favorì la predisposizione di un dossier serio al riguardo e si disse che bisognava intervenire sul piano legislativo affinché le condizioni di impiego venissero fissate in maniera restrittiva. Per esempio, sempre in quel paese si può utilizzare questo dispositivo inabilitante nei confronti di coloro che abbiano commesso reati gravi oppure siano seriamente sospettati di un reato grave. Quali sono i reati gravi per la legislazione elvetica? Una seria messa in pericolo di vita, l'integrità fisica, la libertà e la sicurezza pubblica, solo per elencarne alcuni. Anche qua venne poi, a seguito dell'impiego e l'utilizzo di questo dispositivo inabilitante, emessa una direttiva interna che disciplinasse l'impiego di questi dispositivi. Se la coercizione di polizia poi provoca un pregiudizio alla salute, sempre il codice elvetico dice che la polizia stessa a prestare i primi soccorsi e va sottoposta la persona a un esame medico. Quindi bisogna avere anche a disposizione un'unità di primo soccorso, perché una volta che l'ha buttato per terra non è che si rialza da solo, questo mi sembra. Come si può notare, la procedura adottata sono complesse, è necessaria una base legale, vanno individuati peraltro i dispositivi. Paolo, posso fare una domanda, scusi, proprio tecnica, ma una volta sparato un colpo è finito, devi ricaricarlo, non è che... Non sono in grado di darle una risposta perché non abbiamo. Perché sono due persone, uno lo ferma, l'altro continua. Cioè, molte volte, se in un caso diciamo di ordine pubblico pesante, ha un'efficacia su una persona perché. Ma guardi, io credo che il problema di fondo sia l'impiego del personale. L'impiego del personale deve essere personale che è appositamente formato nel rispetto appunto delle regole stesse dell'impiego della strumentazione. Entra in gioco qui anche il delicato tema della formazione. Come organizzazione sindacale abbiamo denunciato da tempo i tagli alla formazione del personale e sono scettico che si possa fare una condizione adeguata di formazione al riguardo, perché il TASER prevede una continua regolare formazione e aggiornamento in questo senso. No, perché potrebbe essere, come ho detto io, in forma romanzata sicuramente, ma una volta avendocelo in tasca, se prima uno chiedeva magari fermati, dammi documenti, che fai, lascia stare, alt polizia, adesso molto più facilmente verrebbe la tentazione, prima lo fermo, poi ragioniamo. Ma guardi, proprio la formazione è proprio imperniata su questi aspetti. Uno, l'aspetto pratico dell'impiego dell'arma, che pone anche accento, a nostro giudizio, sulla responsabilità aggravante sull'agente di polizia che ricorre a un dispositivo inabilitante, sulle possibili conseguenze. Nella formazione di base, sempre nel codice elvetico, si vengono trattati le disposizioni di sicurezza, le condizioni giuridiche, i primi soccorsi, come diceva lei, gli aspetti elettrici, medici e il maneggio anche dell'arma e esercizi pratici proprio per l'utilizzo. Addirittura io ho letto che negli Stati Uniti hanno anche un videoregistratore per registrare il teatro in cui si usa questa, per non avere contestazioni poi che sia stato usato in maniera impropria, quindi evidentemente c'è una delicatezza di operazioni. Esatto, e il tema, come abbiamo detto all'inizio, è serio e complesso e avrebbe bisogno di un approfondimento ulteriore. Lei pensi che in Svizzera su 9 casi di sottoposizione al TASER, sempre in questo dossier, ci dicono che 6 persone non hanno riportato lesioni, una ha riportato ustioni di primo grado, un'altra un'emorragia a seguito della caduta. Perché dipende anche quale parte del corpo è interessata alla scossa elettrica. Penso ad esempio al viso, come avevamo detto prima, il penetramento della freccetta in una zona inappropriata del corpo può avere conseguenze di un certo. Io vedo la grafica sul Corriere della Sera che davanti a me è anche abbastanza preoccupante, perché lo colpisce diciamo sotto l'ombelico, che non credo che sia una cosa molto piacevole. Inoltre ci sono delle categorie, dei gruppi a rischio, sono le persone che sotto effetto di sostanza stupefacente, quelle malate affette da malattie cardiovascolari. Quindi direi, per concludere, che chi impiega un dispositivo inabilitante deve osservare attentamente le disposizioni legali e regolamentari interne e le direttive sull'impiego. Quindi una cosa assolutamente, come dicevamo all'inizio, meno da evocazione anche dei modelli oltreoceano, ma un qualcosa che va trattata. Quindi non è un automatismo. Melog, cronache meridiane. Togliendo la sicura. Una scarica elettrica sotto forma di brevissimi impulsi che può stordire una persona anche al solo contatto con i vestiti. Funzionano così quelli che in inglese sono conosciuti come taser. In Italia questi apparecchi sono illegali e considerati a tutti gli effetti delle armi, tanto che non possono essere né importati da altri paesi. A me già sentire il rumore della scarica elettrica mi ha fatto rabbrividire. Quindi, immagino che, come dice il nostro ospite, non sia certo un'esperienza augurabile. Non è un gioco, non è una sorta di variante dello spray al peperoncino, ma è qualcosa di molto potente e efficace. Sentiamo qualche ascoltatore, già sta aspettando a tempo. Marco, buongiorno. Marco, niente, è stato colpito dal taser. Mauro, buongiorno. Stanno tutti a passeggiare. Va bene, andiamo avanti. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Ecco, gli altri ascoltatori sono distratti un attimo. Vediamo Renzo. Mi sembra aver capito che lei appartiene anche a un altro sindacato di polizia e non è d'accordo con il suo collega Tissone. No, non sono d'accordo, nel senso che secondo me in polizia abbiamo parecchi sindacati e la scaricando hanno secondo me certi sindacati hanno sempre appoggiato, abbiamo sempre combattuto per avere un qualcosa. Il suo come si chiama? Il suo sindacato come si chiama? Non voglio fare nomi, non è un problema di sindacati, sinceramente. Beh, lo rappresenta o no in questo momento? Parla da... No, io parlo da polizia. Da gente, esatto. È il suo punto di vista. Io con un sindacato che mi fa tutte queste polemiche per poter avere un mezzo che non sia la pistola, non sia il manganello per cercare di fermare delle persone che hanno comportamenti, diciamo, molesti, sinceramente non mi iscriverei mai a un sindacato del genere. Vabbè, questo è un problema i sindacalisti vostri. Voglio capire il suo punto di vista da gente. Come vede questo oggetto? Penso che abbia perfettamente capito che è una cosa delicata da usare, non è che si può usare come si usa una bomboletta spray. Io guardo presente al Rovandi quello che è di Ferrara, certo, sinceramente sì. Mi è dispiaciuto e secondo me se avessimo avuto uno strumento del genere forse si sarebbe potuto evitare, questo sicuramente. Perché è altre situazioni in cui la persona non lo ha visto usare, ha esperienza, sa come funziona, oppure ancora diciamo un oggetto per noi misterioso? Non ho esperienza personale, mi sono documentato tramite internet. E secondo lei qual è il tipo di quadro, diciamo, operativo in cui potrebbe usarlo? Questo, una pattuglia notturna? Adesso a quanto ho capito non verrà dato in pattuglia, ma bensì verrà adottato solamente quelli che operano allo stadio oppure in manifestazioni. Però questo viene da pensare, scusi, io non capisco nulla di queste cose, ma il taser spara un colpo, ne ferma uno e gli altri? Normalmente in una manifestazione non è che sia... Diciamo quello che minaccia con un'arma o crea un pericolo per voi o per le altre persone viene fermato. D'altronde prima si fa una sperimentazione, non è una cosa che viene dotato a tutti quanti, a quanto ho capito, però stiamo parlando di qualche cosa che... Ma la cavia chi la fa? Scusi, perché non credo che... La sperimentazione nel senso di... lo provate come test. Ci sono certi specialità o certi settori della polizia che proveranno questa cosa. Stiamo sperimentando anche il peperoncino urticante, se non sbaglio. Per cui... però quello mi sembra che è abbastanza in libera vendita, perlomeno ci girano le signore. Se una persona è allergica oppure ha problemi d'asma, ha lo stesso effetto. Sì. Non è che ci siano tante differenze fra una scarica elettrica per uno che ha problemi di cuore e uno che è asmatico e gli spari il peperoncino in faccia. Sì. L'avranno provato e sicuramente... Dice anche quello crea dei problemi. Grazie. Marco, buongiorno. Buongiorno. Suo punto di vista. Buongiorno, signor Nicoletti. Sì, l'ascolto. Buongiorno. Ascolti, io sono più che favorevole a questo taser o anche a tutto quello che può aiutare la polizia a dare ordine. Perché non è giusto che durante una manifestazione, qualsiasi cosa, ci devono essere dei violenti. Io credo che chi non ha paura, chi non deve temere niente, nel senso che si comporta bene come persona civile, non deve avere nessun problema. Il problema è un altro, si pongono alcuni diciamo rappresentanti sindacali, agenti, il problema è che serve una formazione e crea alcuni rischi, non voglio andare di fronte al rischio di usare qualcosa che può creare dei danni molto gravi, dice la prima volta che creiamo un problema con il taser, poi dopo ci si crea un problema di generale gestione, oppure mi sembra che capito, non è una cosa che te la dai in mano e la puoi usare, ci vogliono alcuni protocolli ben precisi. Ma ci vuole anche qualcosa che Cioè, io lei dice che bisogna andare avanti comunque. Chi delinque oggigiorno non ha paura delle conseguenze. Chi delinque non ha manco paura del Kalashnikov, perché è fatto fino al collo di cocaina, nel momento che delinque non ci pensa. Giorgio. Sì, pronto? Sì. Buongiorno a tutti. Senta, io vorrei solo intervenire brevemente intanto sul discorso che lei ha accennato inizialmente, dicendo come usano in tutto il mondo, ma lo usano in America e in Canada, quindi non è in tutto il mondo. Poi in seconda battuta, perché questo è un discorso molto complesso, il governo è in grado di mettere delle garanzie di soldi in caso di incidente dove muore qualcuno, qualcuno rimane menomato, con fideiussioni e garanzie, con leggi molto chiare? Beh, questo può accadere, scusi, anche per una manganellata o per un altro anche tipo? Anche per quello dovrebbero farlo, anche per questo dovrebbe prendersi la coscienza e la responsabilità in denaro per risarcire immediatamente, senza passare dal tribunale, quello che è giusto. Quindi dobbiamo fare un'assicurazione ogni agente sull'uso che, sulla conseguenza potrebbe dare l'uso delle sue attrezzature antisommossa. Daniele Tissone, ricordo, segretario nazionale SILP, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia. Gli ho dato un quadro per potersi anche destreggiare su opinioni che non corrispondono alle sue. Ma guardi, non si tratta di avere opinioni che non corrispondono, qui si tratta, come abbiamo detto, semplicemente dall'inizio di effettuare una sperimentazione seria, e una sperimentazione che consenta, che sia tutela, anche nel rispetto della nostra normativa, di quello che è l'operatore di polizia, ma anche la persona che viene interessata da questo dispositivo inabilitante. Al momento è tutto fermo, solo per capire, in conclusione, ancora ma non ci vi... vorrà. Ma non... guardi, ci vorrà del tempo, io mi auguro che questo tempo sia sufficiente a fare un'analisi corretta dell'utilizzo dello strumento attraverso, come abbiamo detto prima, una formazione adeguata, perché c'è in gioco la sicurezza dei cittadini e anche dell'operatore. Vabbè, allora la Commissione Affari Costituzionali ha deliberato, passerà del tempo finché diventi operativo, se diventerà mai operativo. Grazie.